Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico finanziaria, chiaramente il documento presentato, devo dire che dalla Grecia, si sta, lo dico con la massima cautela, creando un certo consenso. La cautela è d'obbligo, visto che la vicenda greca ci ha abituato a qualunque sorpresa, ma dicevo, si sta creando un certo consenso, come già raccontavano anche i nostri GR24, sulla lettera arrivata ieri sera, quindi il piano greco che ne racconteremo. Il sempre molto scettico e anche arcigno nei confronti della Grecia, presidente dell'Eurogruppo Jérôme Dijsselbloem, ha detto le proposte inviate da Atene la notte scorsa sono esaurienti, dovranno essere poi valutate sulla base della loro fattibilità. Tra l'altro c'è stata una telefonata, una conference call, come si dice in gergo, tra i vertici delle istituzioni incaricate di valutare la riforma di Atene, quindi Jean-Claude Juncker per la Commissione Europea, Christine Lagarde come direttrice del Fondo Monetario Internazionale e Mario Draghi, appunto intorno alle 13, per valutare fattibilità, oltre che proiezioni e prospettive di questo piano greco. Secondo il cancelliere austriaco Faymann, l'accordo a questo punto è possibile, dovere, nostro dovere utilizzare quest'ultima occasione in modo costruttivo. E poi, per quello che riguarda altre dichiarazioni, anche alcune fonti europee fanno sapere che se sabato si dovesse raggiungere un accordo dentro l'Eurogruppo, non si terranno i vertici straordinari previsti per domenica. Anche il premier Renzi ha detto l'accordo può essere fatto sabato, speriamo di non rivederci anche domenica. Per quello che riguarda l'Italia, Renzi poi ha aggiunto, non è, nessuno pensi che siamo soddisfatti, non c'è il tema della crescita, l'Europa deve tornare a essere una casa dello sviluppo, non delle statistiche. Anche questo ascolteremo più avanti, quando parleremo di Grecia. Dopo la seconda ora, perché oggi l'appuntamento, il venerdì, con la poco invidiabile classifica di Focus Economia sugli sprechi della settimana. Farò poi una piccolissima premessa, perché abbiamo, per motivi di opportunità, evitato di dare il numero uno a un atteggiamento, oltre che a una gestione del tutto non economica. Adesso ve la spiegherò, però andando avanti, per quello che riguarda le altre notizie, i mercati sono più che positivi, più 2,70% Milano, più 3,20 Parigi, più 2,80 Francoforte, più 1,26 Londra, che è ovviamente meno coinvolta nelle vicende greche, più 1% l'America. Questa mattina anche l'Asia, visto che l'altro fronte che si è aperto in queste settimane è stato il crollo della borsa di Shanghai e la borsa cinese in generale. In Shanghai questa mattina ha chiuso in rialzo del 4,5%, Shenzhen del 4%, dopo le misure straordinarie adottate dal governo cinese per sostenere le borse e la sospensione di quasi la metà dei titoli dalle contrattazioni. Immaginate se in Italia si fossero sospesi quasi la metà dei titoli dalle contrattazioni, le borse asiatiche e in particolar modo le borse cinesi stanno recuperando. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Ci occuperemo anche di una buona notizia per l'Italia, o meglio, ci sono i dati del Ministero del Lavoro sui contratti. Anche lì, ogni volta, questa pletora di fonti di informazioni sul mercato del lavoro, noi continuiamo a chiedere che ce ne sia una sola e magari usiamo l'Istat, perché il Ministero del Lavoro dice c'è un boom dei contratti a tempo, ci sono solo 271 contratti stabili in più nel mese, preso in considerazione nel mese di maggio, se poi si leggono i dati si crea molta confusione. Il dato, insomma, il saldo tra attivazione e cessazione è di 185.000 nuovi contratti, tra quelli attivati 934.000 e quelli cessati 750.000. Di questi però solo 271 sono contratti stabili, quindi contratti fatti col Jobs Act. La crescita di 184.000 contratti a tempo indeterminato in realtà è dovuta alla trasformazione di contratti già esistenti in contratti a tempo indeterminato. Nuovi contratti a tempo indeterminato, quindi nuove assunzioni col Jobs Act sono solo 271, le altre sono trasformazioni. La buona notizia vera invece riguarda anche questa è una buona notizia, perché continuiamo a ripetere che è meglio avere un tempo indeterminato anche col Jobs Act che non il contratto a progetto piuttosto che la partita IVA o quant'altro, però di nuovi contratti come nuovi assunti il dato ancora non c'è, nel senso non è significativo, sono solo 271, mentre la produzione industriale a maggio cresce del 3% sul maggio del 2014, il dato questo sì è solo ed esclusivamente positivo, è in crescita anche congiunturale dell'1% su aprile, tutti i comparti crescono, è l'aumento della produzione industriale più forte dal 2011, anno su anno, dall'agosto del 2011. Le altre notizie in breve. Allora, ha ragione l'ascoltatore dicendo state parlando senza sapere cosa deciderà il Parlamento greco con il suo voto alle 18 in Grecia, quindi alle 19 in Italia. È chiaro, noi abbiamo raccontato e sintetizzato le posizioni europee, non quelle greche, anche se c'è un'apertura anche in Grecia, poi ne parleremo. Tsipras sta cercando di allargare la sua maggioranza e quindi di non avere solo, diciamo, il voto di Syriza, ma di apportare e arrivare in Parlamento con la maggioranza più ampia possibile. Mandateci un po' di tempo e arriveremo anche lì. Le altre notizie in breve invece, per quello che riguarda la produzione industriale, il ministro Padoan, visto che la stavamo appena commentando, ha detto andiamo nella direzione giusta anche se c'è ancora molta strada da fare. E il Presidente del Consiglio Renzi ha detto i dati di oggi sull'occupazione, la produzione industriale e la crescita sono ancora bassi rispetto a quello che possiamo fare, ma più alti del recente passato. Quando si fanno le riforme le cose cambiano. Abbiamo discusso delle questioni legate alla valutazione sulla necessità di investire sulla crescita e non soltanto sulla austerity. Abbiamo discusso della necessità di fare le riforme strutturali. Noi oggi abbiamo dei dati molto molto importanti in Italia, un'ulteriore dimostrazione che facendo le riforme le cose cambiano, i dati di nuovo dell'occupazione, i dati della crescita della produzione industriale sono ancora molto bassi rispetto a quello che noi siamo convinti che potrà essere fatto, ma sono molto più alti del recente passato, sono veramente il segno di un'inversione. Questo perché? Perché quando si fanno le riforme poi le cose cambiano, e lo dimostra oggi il dato sulla produzione industriale, lo dimostra il dato sull'occupazione. Allora sì, devo dire che insomma il dato sulla produzione industriale è incontrovertibilmente buono, quello sull'occupazione no, adesso non voglio contraddire il Presidente del Consiglio, però insomma il Ministero dice che ci sono 185.000 contratti a tempo determinato in più, ma solo 271 sono nuovi, l'ho appena ripetuto, quindi è chiaro che anche questo è un dato positivo, perché è meglio avere un contratto così, ma dire che è ripartito il mercato del lavoro è un'altra cosa, per favore. Va bene, l'asta dei bot oggi è andata bene, il tasso è leggermente risalito allo 0,12, 0,124 per la precisione, il rendimento è massimi da febbraio, ma insomma sempre un rendimento bello basso, anche se a giugno era quasi la metà, 0,061. La domanda buona, non altissima, la copertura, il rapporto di copertura di domanda era una volta e mezzo l'offerta. Collocati comunque bot a un anno per 6 miliardi e mezzo di euro. Comunque, sui dati della nostra industria, del fatturato industriale che cresce del 3% rispetto a un anno prima, nel mese di maggio il dato più forte rispetto all'agosto del 2011. Su questo, dicevo, si concentrano i 100 secondi di Radio 24, solo 24 ore. Oggi la firma, quelli trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, oggi la firma è del vice direttore Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. C'è ancora molta strada da fare, ma stiamo andando nella direzione giusta. Forse proprio questa frase lanciata via Twitter dal ministro dell'economia Piercarlo Padoan a dare il giusto peso alla notizia diffusa oggi dall'Istat del buon andamento della produzione industriale. La verità è che serve cautela e i dati non devono mai essere enfatizzati, ma è un fatto che il mese di maggio ha portato interessanti segnali di risveglio sul fronte industriale, segnali che arrivano dopo un mese di aprile che invece aveva fatto registrare uno stop. L'Istat ha calcolato che l'aumento della produzione industriale su base mensile è stato dello 0,9%, su base annua il balzo è arrivato addirittura al 3%, ben oltre le previsioni degli analisti che avevano stimato una crescita dell'1,2%. È interessante segnalare che per trovare un aumento più elevato si deve tornare all'agosto del 2011, quando la crescita su base annua fu addirittura del 7,1%. Quindi andamento positivo della produzione industriale si segnala in tutti i raggruppamenti, compreso quello dei beni di consumo, ma a far ben sperare c'è la crescita che interessa il comparto dei beni strumentali, più 8,5% rispetto all'anno prima, ed è un dato che indica forse un maggior ottimismo delle imprese pronte a investire nell'aspettativa di una ripresa un po' più solida di quanto non si sia visto finora. Insomma, come dice Padoan, un passo nella direzione giusta. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, mi fate notare che ho detto le 18 in Grecia, le 17 in Italia, chiaramente ho detto le 19 in Italia, chiaramente le 18 in Grecia sono le 17 in Italia. Faccio notare però che dalle ultime agenzie non è chiaro nemmeno se il Parlamento greco voterà questa sera, quindi 18 in Grecia o 19 in Grecia o 20 in Grecia, o addirittura andrà a votare domani mattina. Per quello che riguarda invece la nostra poco invidiabile classifica, che adesso avrà inizio come ogni venerdì, fatemi fare una brevissima premessa. In realtà in questa classifica avremmo voluto inserire, lo faremo la prossima settimana, anche l'ATAC al capolinea. Perché? Perché quello che è successo a Roma con gli autisti che hanno messo in atto uno sciopero bianco rallentando la circolazione dei treni sulla linea A e B della metropolitana, perché Marino, il sindaco Marino, aveva introdotto l'obbligo di strisciare i badge all'inizio e alla fine del turno, quando sostanzialmente a Roma gli autisti, per definizione dello stesso Marino, un macchinista della metropolitana a Roma lavora 720 ore contro le 1150 ore l'anno di Milano. A noi sembrava che questa vicenda andasse raccontata per far capire come ci sono alcune categorie che non vogliono cambiare in un ATAC che viaggia con un passivo di 141 milioni di euro più 58 milioni già generati quest'anno. Ne parleremo la prossima settimana, perché per rispetto con quello che è accaduto ieri, a me, la tragedia alla metropolitana di Roma, ci sembrava di cattivo gusto mettere in classifica e nei posti alti della classifica l'ATAC. Per rispetto alla tragedia e non, diciamo, alla gestione dell'ATAC, l'ATAC sarà oggetto della classifica la prossima settimana. Adesso però la classifica odierna. La classifica della settimana. We'll Allora, partiamo bassi bassi, ma con cattivi abitudini. Abbiamo visto adesso che a Pompei hanno annunciato la possibilità di fare alcune visite notturne. Peccato che a Ercolano, di nuovo, in piena stagione di turismo estivo, si sia verificato questo simpatico caso, ormai non li contiamo neanche più, degli scavi archeologici di Ercolano, appunto, che hanno chiuso alle 13 a causa, quindi all'una già chiusi, a causa della carenza di personale di vigilanza. Allora, secondo la sovrintendenza la situazione è complicata perché nell'area archeologica sono disponibili solo 36 addetti alla vigilanza distribuiti su 5 turni, che significa 6-7 custodi per turno, e questo ci garantisce, spiega la sovrintendenza, la tutela del monumento ma non l'ottimale pubblica fruizione, obbligandoci a un'apertura a rotazione di alcune delle più significative domus del sito. Ora, lunedì pomeriggio è bastata l'assenza, dice la sovrintendenza, basta l'assenza di poche unità di servizio per rendere impossibile l'apertura. In realtà sembra che lunedì pomeriggio fosse assente solo un custode, ma l'Osservatorio Patrimonio Culturale, per voce di Antonio Irlando, fa notare che non ci si può sempre, io sono anche d'accordo, nascondere dietro la spending review. Poniamo il tema della mobilità nel pubblico impiego, visto il numero di impiegati che esistono in Campania e anche a Napoli. Dice infatti Irlando, è possibile spostare lavoratori in esubero dalle amministrazioni vicine. Non c'è alcun piano di emergenza, c'è solo una brutta figura con i visitatori ed in gioco la credibilità del paese. Io mi rifiuto di credere che non si riesca a trovare in tutta la regione Campania, nell'amministrazione pubblica, anche dei comuni vicini, qualcuno da spostare per sistemare una volta per tutte il problema di una volta Ercolano, una volta Pompei, una volta Ercolano, una volta Pompei. Quarto posto. No, mi viene da ridere se non fosse la situazione molto seria. Allora, viene girato un film che si chiama, dalla Dreams Factory Film Productions, il film si chiama Babbo Natale non viene dal nord. Voi direte che cosa si è fumato Barisoni? No, tra l'altro la pellicola vede protagonista quale attore e anche regista il napoletano Maurizio Casagrande, partecipa anche l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che te ne frega Barisoni? Un attimo, c'è un piccolo problema, i soldi. Ci sono 100.000 euro di soldi pubblici versati nelle casse della casa di produzione dal comune di Salerno, quale contributo alle riprese girate in città. Allora, non c'è nulla di illegale, nel senso che se è un contratto, delle volte capita che per far girare, per scegliere, fare in modo che la location sia nella tua città, ci possono essere degli accordi. Quello che è un po' strano è che tu, per fare questi accordi, cioè, devi avere anche un bilancio sano. Non è che ti puoi mettere a spendere 100.000 euro dei contribuenti per far girare un film a Salerno. Tra l'altro, secondo il comune di Salerno, che per giustificare questo contributo di 100.000 euro dice che questo film rappresenta uno spot naturale per le luci, tra virgolette, luci d'artista natalizie, che è un evento appunto che si tiene a Natale, ma è un evento in cui il sindaco di Salerno e anche l'ex sindaco Vincenzo De Luca, attualmente governatore della regione Campania, sono stati accusati di farsi propaganda elettorale con questa manifestazione. Quindi il centrodestra dice, ma insomma, utilizzate i soldi dei contribuenti per farvi pubblicità elettorale per un evento che è un evento elettorale, dite che questo film a cui date i soldi serve a mettere in evidenza un evento che serve solo a voi per un momento elettorale. Ora, tutto questo potrebbe rientrare nel dibattito poco edificante del comune di Salerno. C'è un piccolo particolare, che il comune di Salerno ha un debito che ha superato i 360 milioni di euro. Tra l'altro, a inizio 2014 il comune ha contratto un mutuo trentennale di 170 milioni di euro con la Cassa Depositi e Prestiti, quindi con i depositi postali degli italiani, per ridurre il passivo. La Corte dei Conti lo scorso marzo ha di nuovo bacchettato il comune di Salerno, dicendo che non riuscirete con questo andazzo a garantire il pareggio di bilancio con entrate proprie. Allora, in questo quadro, in cui hai un passivo di 360 milioni. Hai chiesto a tutti gli italiani, perché ripeto, la tanto ambita cassa depositi e prestiti ha i risparmi postali degli italiani, hai chiesto 170 milioni e poi dai 100.000 euro alla Dreams Factory Film perché ha girato il film Babbo Natale non viene dal nord. Babbo Natale viene dal sud, viene dal comune di Salerno. Saliamo la classifica, perché da 100.000 euro sarebbe interessante sapere invece quanto ha guadagnato in questi anni il professor Ciro D'Apice. Però purtroppo siamo sempre a Salerno, ma all'Università di Salerno, Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Matematica. Secondo la Procura di Salerno, il PM Rocco Alfano, guardate che non c'è limite alla fantasia, abbiamo visto di tutto in questi anni sulle baronie perpetrate nelle università del sud e anche in alcuni casi del nord. Allora, che cosa si era inventato il professor Ciro D'Apice? Praticamente un vero e proprio sistema estorsivo, cioè lui diceva a tutti i dottorandi, erano quattro donne, tutte dottorande nel suo dipartimento di ingegneria elettrica e matematica, imponeva di girargli sostanzialmente i soldi del dottorato di ricerca. Nel caso specifico della borsa di ricerca, a una di queste, nonostante avesse vinto una borsa di ricerca, le aveva attribuito il ruolo di segretaria. Ciro D'Apice, ma lei sa che cosa deve fare, vero, nella vita? Perché occupa, se tutto questo venisse confermato, perché non solo demansiona segretaria a una dottoranda, lei che è lì, vorremmo sapere anche da quanti anni, che documenti, che produzione scientifica ha avuto nel suo dipartimento di ingegneria elettrica e matematica, visto che le università non vogliono mai essere giudicate, vogliono mantenere il valore legale del titolo di studio, perché se no si discrimina, discriminiamo, buona università, cattiva università, quelle buone faranno pagare di più, daranno le borse di studio, avranno maggiori studenti e le altre, e basta, perché oltre a questo trasforma in segretaria una dottoranda che aveva vinto la borsa di ricerca, a un'altra neolaureata la costringe a versare su 18.600 euro di assegno annuale di dottorato di ricerca ben 17.900 euro. E questa pratica, secondo l'accusa, era utilizzata per tutti i dottorandi che finivano nelle grinfie del mitico Ciro D'Apice. E adesso il PM ha chiesto il processo, vediamo come si difenderà. Che schifo, anche perché i dottorandi, appunto, investire sui giovani, sulla ricerca. Ma poi gli capiterà qualcosa. Io gli farei fare il segretario dei dottorandi per un po'. Vabbè. Mi fermo, andiamo al secondo posto. Usciamo da Salerno, per favore, andiamo a Venezia, perché di questi giorni la notizia, anzi di ieri, di quanto ha votato il Senato sui vitalizi per i condannati, tutti i giornali riportavano Berlusconi, Previti e Berlusconi dell'Utri, scusatemi, et altri. In realtà, purtroppo, questa è una parte di quello che sta capitando nel paese, perché in molti altri casi, e non tanto in Senato o alla Camera, ma anche nelle regioni, i vitalizi vengono dati finché non c'è la sentenza in Cassazione. Ora, magari uno potrebbe, adesso non so se sia percorribile, sospendere, non cancellare il vitalizio, sospendere il vitalizio finché non arriva la sentenza in Cassazione. Perché, per esempio, in Veneto c'è una legge regionale che toglie i vitalizi ai condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, e va bene, ci mancherebbe che gli diamo pure il vitalizio. Però da questo punto di vista non dico di toglierlo prima dell'ultimo grado di giudizio, perché giustamente esistono i gradi di giudizio, ma almeno sospenderlo, poi te lo daremo se verrai assolto e giudicato innocente, avrai il vitalizio anche per gli anni in cui era stato sospeso. Invece che cosa capita? Capita che l'ex assessore alle infrastrutture della regione Veneto, Renato Chisso, che è stato arrestato 400 giorni fa per lo scandalo Mose, lui aveva ricoperto la carica di assessore per 14 anni di fila, ha patteggiato, quindi ha riconosciuto la pena, poi potrà dire come Galan che non era vero, ma intanto ha patteggiato 2 anni e 6 mesi per corruzione, più 20 giorni per abuso d'ufficio, tant'è che ancora ha gli arresti domiciliari ma siccome la sentenza non è ancora definitiva e bisognerà attendere il 23 luglio la Cassazione, nel frattempo Renato Chisso, con questo bel pedigree, ha ottenuto l'assegno di vitalizio da 80.000 euro l'anno e il trattamento di fine rapporto per altri 70.000 euro lordi. Ok? Meteo, pubblicità e poi il primo in classifica. Focus Economia. Dopo il secondo posto raggiunto dall'ex assessore alle infrastrutture del ragionamento Renato Chisso, guardate che Chisso ha patteggiato, ok? 2 anni e 6 mesi per corruzione, più 20 giorni per abuso d'ufficio, ok? E ancora ai domiciliari. Io non ho detto di non aspettare la Cassazione, come scrivono alcuni, ho detto in attesa del giudizio della Cassazione. Si può almeno sospendere il vitalizio e poi lo si ridà, comprese diciamo, la parte non versata, perché in questo modo lui si è beccato già 70.000 euro lordi una tantum e ha ottenuto l'assegno per 80.000 euro l'anno. Ok? Allora, vediamo se si può trovare un altro modo rispettando i 3 gradi di giudizio. Ma arriviamo al primo posto e torna dopo settimane che non era delle volte nemmeno in classifica e delle volte non al primo posto. Beh, la regione Sicilia, perché ho visto un'intervista del governatore Crocetta che dice, insomma, io sto cercando di fare il possibile. Sì, prende un po' di distanza dal medico indagato di cui parlammo la settimana scorsa, però attenzione, la Corte dei Conti ha fatto un rapporto sui conti della regione Sicilia e continuano a peggiorare. Per l'ennesima volta la Corte dei Conti sottolinea la condizione di difficile sostenibilità dei conti pubblici regionali e le significative, cito testualmente, involuzioni rispetto al 2013, vuol dire che va a peggiorare. Allora, la sanità, la spesa è stata di 9 miliardi e 508 milioni, sono 615 milioni in più rispetto al 2013. Crocetta, ma dov'è che avete tagliato? Per la sanità la regione Sicilia spende il 54% di tutto il suo budget in una regione, ma non è che vogliamo tagliare la sanità in maniera diciamo sconsiderata, però evidentemente vanno riaccorpate le strutture piccole, ai cittadini va spiegato che farsi curare in un ospedale piccolo è molto piccolo e con medici con poca esperienza è molto peggio che non andare in un centro specialistico che vede il maggior numero di casi. Basta con questi ospedali di prossimità, no, a meno che non sia appunto un day hospital, ma insomma non voglio fare io l'assessore alla sanità, dico solo 600 milioni di euro in più in 2 anni, 1 anno e mezzo, per la spesa sanitaria siciliana che già era altissima, 9 miliardi e 508 milioni. Il debito complessivo della regione è pari a questo punto, al 31 dicembre 2014, a 5 miliardi e mezzo, ragazzi, 5 miliardi e mezzo, cioè quasi mezza manovra finanziaria, con un aumento del 3% in un anno. Praticamente ogni siciliano, neonati compresi, ha un debito di 1.100 euro. Poi, entro quest'anno, a questo debito si aggiungerà un altro 1.700 milioni, perché la Regione Sicilia sottoscriverà un prestito da 1.700 milioni. Ora, la Corte dei Conti fa notare che è sempre la Regione Sicilia, è la regione dove c'è un dirigente ogni 8,6 dipendenti. Ripetiamolo ancora una volta, sono 20.000 dipendenti, 20.000 veri, della Regione Sicilia. Anzi, per la precisione sono 17.325, di cui 15.000 a tempo indeterminato, e ci sono 1.737 dirigenti, 1 ogni 8,6 dipendenti. Poi ci sono per altre 2.600 persone inquadrate nei servizi esternalizzati, perché non ce la fanno, pur avendo 20.000 dipendenti, a svolgere tutti i servizi. E ci mancherebbe, no? E poi ci sono servizi che hanno un solo dirigente e nessun dipendente, è uno che dirige chi? Dirige se stesso, cioè abbiamo già raccontato questo sdoppiamento della personalità. Per esempio, c'è un ufficio che è un ufficio importantissimo, l'ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, che deve liquidare gli enti inutili, soprattutto di 19 società partecipate alla regione che non servono a nulla. Allora, è stato creato nel 2014, per ora non ha concluso nulla, cioè non ha chiuso niente, anche perché non ha dipendenti, c'è solo un dirigente. Un grande applauso alla Regione Sicilia, che di nuovo riconquista il primo posto della nostra poco invidiabile classifica. Adesso il traffico e poi il nostro l'imprenditore della settimana e poi la borsa, la Grecia e la produzione industriale. Focus Economia. In diretta, la sento un po' stanco. No, non è che sono stanco, è che delle volte fare la classifica il venerdì in una settimana di caldo africano, una classifica africana, col massimo rispetto per l'Africa, che con questa classifica giustamente poi si arrabbia l'Africa, delle volte è faticoso, no? Perché mancava solo il professore di Salerno che ricattava i dottorandi prendendogli buona parte della borsa di studio, cioè. Gilberto Cavallina, cofondatore e amministratore di Comunichiamo, buonasera. Sì, ciao e grazie per l'invito. Sì, allora, Comunichiamo, è scritto Comuni maiuscolo trattino chiamo, adesso lo capite anche, Comunichiamo. Che cosa avete fondato e quanti anni ha lei? Io ho 27 anni e all'età di 24 ho fondato assieme ad altri tre ragazzi, ora colleghi e soci, e un'azienda che sviluppa una piattaforma con cui i comuni possono ricevere le segnalazioni dei cittadini in maniera più semplice. Ogni cittadino ha la propria app che può scaricare oppure collegarsi al sito per segnalare cosa non funziona nel territorio, e sul nostro gestionale gli uffici del comune si coordinano, lavorano fino a risolvere il problema e rispondere al cittadino. Visto che parliamo nella nostra classifica, scusatemi, di cattiva amministrazione, di cattivi comportamenti dell'amministrazione pubblica a qualunque livello, voi con questo software date la possibilità, se ho ben capito, come diceva, ai cittadini di fare segnalazioni al comune dal proprio cellulare. Cos'è, un'app? Sì, è un'app per iPhone, è un'app per Android, più c'è il sito internet e oltre a questo, che è dedicato ai cittadini, c'è tutto il percorso gestionale per gli uffici, perché segnalare non basta se poi dietro non si aiuta il comune a gestire le segnalazioni e risolverle. Ma cioè, per esempio, mi faccio un esempio concreto, io scarico questa app sul telefonino e poi che cosa faccio il mio comune? Appena individuo un problema, che può essere un cassonetto che non è stato svuotato, una buca o un lampione che non funziona più, tiro fuori il cellulare, apro l'app, segnalo con la posizione presa dal satellite, individuo il tipo di problema, se voglio faccio anche la foto, e immediatamente la problematica arriva sulla scrivania dell'ufficio di competenza. E quanti comuni hanno già sottoscritto questa app? Perché vorrei capire poi, l'idea è molto bella, anche perché poi l'amministrazione non può dire segnalatecelo, non ce l'avete mandata. In questo modo la segnalazione arriva anche con foto in tempo reale. Quanti comuni hanno sottoscritto questa iniziativa? Siamo a più di 50, più o meno su tutto il territorio nazionale, una decina sono in arrivo e tanti altri quelli che stiamo accompagnando nel processo di decisione. Quindi centro, nord e sud, lo dico con massimo rispetto? Sì, sì, sì, sì. Siamo partiti più in Emilia Romagna, essendo noi di Bologna, poi siamo abbastanza presenti in Lombardia, ma abbiamo anche dei casi nel sud Italia, quindi è abbastanza trasversale. Anche in Sicilia, visto che parlavamo della Sicilia. Sì, sì, abbiamo due comuni anche in Sicilia, Ragusa e Bagheria. No, Ragusa, perché invitiamo tutti i comuni ad adottare qualunque software, non il vostro, se non è pubblicità, per avere un miglior rapporto con i cittadini. Mi sembra che le segnalazioni non manchino a giudicare dalla nostra poco invidiabile classifica. Senta, e funzionari pubblici usano il vostro software? Sì, oggi sono 1700 i funzionari che abbiamo formato e che utilizzano il nostro applicativo come gestionale per risolvere i problemi, quindi sì, sono parecchi. Allora, fatturato e dipendenti? Siamo fatturato 2014 120.000 euro, siamo quattro amministratori e un collaboratore. Ma ce la fate a campare ancora? Sì, con un po' di sacrifici, ovviamente essendo autofinanziati ed essendo partiti da soli, le cose stanno andando discretamente bene in passato, stanno migliorando sempre di più. Ecco, chi vi ha aiutato all'inizio? Mi diceva, non avete avuto finanziamenti? No, ci siamo aiutati un po' da soli. All'inizio abbiamo messo i pochi soldi che avevamo risparmiato durante gli studi. Inizialmente ovviamente non percepisci nessun compenso per il tuo lavoro, poi arrivano i primi clienti, i primi piccoli investimenti e si cresce così. Quindi ad oggi siamo completamente autonomi. Mi dice in 20 secondi la difficoltà più grossa che avete incontrato? Probabilmente convincere gli amministratori locali che l'innovazione non va contro a quello che è il loro lavoro quotidiano. Si può fare innovazione dando servizi ai cittadini e riducendo allo stesso tempo il lavoro, il carico di lavoro degli uffici attraverso una semplificazione, un miglioramento dei processi. Strumenti più snelli. Alcuni lo dicono in buona fede, ci sono tantissime centinaia di amministratori locali bravi, altri lo dicono in cattiva fede, perché più sei controllato più ti tocca lavorare bene. Grazie, mi torna il buon umore quando sento la nostra storia del venerdì dopo la classifica di cosa non va in questo paese. Grazie, in bocca al lupo a lei e ai suoi quattro soci, a Gilberto Cavallini, a 27 anni, cofondatore, anche per il ruolo sociale di questa iniziativa. Comunichiamo, in bocca al lupo veramente. GR24, poi Borsa, Atene. Il segnale orario vi è offerto da Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso di borsa. Grecia è fatturato dalla nostra industria. Fa notare un ascoltatore che i due comuni siciliani che hanno utilizzato il software dell'imprenditore che abbiamo presentato come ogni venerdì per dare anche un po' di ottimismo dopo la classifica sono due comuni a 5 stelle. Lo diciamo, non abbiamo niente in contrario. Quindi non ci dica che poi siamo omertosi nel ricordarlo. Andiamo invece sulla borsa. Lo spread scende in maniera molto repentina, è sceso a 125 punti in una giornata fotocopia sostanzialmente di quella di ieri. Sale tutto perché si scommette ormai sull'accordo con la Grecia, più 3% Milano che recupera quasi 23.000 punti, 22.900, più 3% Parigi, più 2.90 Francoforte, Londra esclusa in negativo e in positivo dalle vicende greche, più 1.40, il Dow Jones in America più 1.30%. Recupera qualcosa anche l'euro sul dollaro a 1.11 titoli, Monte dei Paschi più 8.20, Mediolanum più 5, CNH Industrial più 4.5 come Azimut, Intesa San Paolo più 4,40, Unicredit più 4,1 come Atlantia, A2A più 3,70% come Toz e Buzzi Unicem, il 3,60 invece lo guadagna Prismian, ma anche Snam, il 3,40 il rialzo di Terna, il 3% lo porta a casa il Banco Popolare, le Generali e Ubibanca. Poi Enel più 2,60 come la Popolare Emilia Romagna ed Eni, Finmeccanica più 2,40 come Moncler, Exor più 2,20 come Jux e Unipolsai e anche Campari. Di negativo c'è solo Saipem, perde il 4,40% e World Duty Free che cresce poco, lo 0,20%. Guido Maurino, Radio Cori, il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Come sempre in questi giorni, insomma, facciamo un commento complessivo, magari concentriamoci solo su Saipem, mentre per il resto, insomma, vale il ragionamento fatto in questi giorni, accordo sulla Grecia ritenuto più plausibile e possibile. Sì, accordo sulla Grecia, spread in ribasso, abbiamo visto appunto banche e risparmio gestito sugli scudi. Per quello che riguarda Saipem invece è stata un'altra giornata negativa, dopo che ieri è arrivato lo stop definitivo al gasdotto South Stream, era già noto, diciamo, che ci fosse un impatto negativo sui ricavi del gruppo per quest'anno di 1,25 miliardi. Oggi le ulteriori flessioni sono dovute al fatto che gli analisti hanno iniziato a fare i loro calcoli su quello che potrebbe essere l'impatto invece sugli utili, è un impatto che la media degli analisti indica fra i 235 milioni e i 300 milioni in termini di utile operativo. Una notizia ovviamente negativa per Saipem, che ha contribuito anche oggi a nuove vendite sul titolo. E poi vabbè, la raccolta dei fondi comuni di investimento spinge, assieme alla Grecia e allo spread, anche Azimut, più, ricordavamo più 4,50 e Mediolanum più 5%, in recupero anche il lusso oggi. Sì, recupero anche il lusso, in particolare TOZ, che ha guadagnato il 3,73%. Proprio il titolo TOZ era stato uno di quelli più colpiti nei giorni scorsi per la sua esposizione sul mercato cinese, e lo scoppio, diciamo, delle borse in Cina aveva fatto temere anche sul mercato del lusso in Cina un rischio che adesso sembra essersi mitigato anche per gli interventi del governo, e ha permesso al titolo di mettersi in luce, appunto, con un guadagno vicino al 4%, ma in una giornata comunque positiva anche per gli altri titoli del lusso. Anche Moncler, abbiamo visto, ha fatto più 2,42%. Allora, vista che la giornata appunto si commenta principalmente sulla Grecia, andiamo rapidamente sui migliori e peggiori. Mondo TV più 11,90, primi sui motori più 9,70, Media Contact più 9,20, Fiera Milano più 9% e poi Monte dei Paschi più 8%, fronte opposto Worldfiller meno 7, Ecosantec meno 4,90, appunto Saipem di cui tu raccontavi, Visibile Editore meno 3,14%. Grazie a Guido Maurino e buon fine settimana a te e ai colleghi di Radio Core, Il Sole 24 Ore. Più 3% la produzione industriale italiana, dicevamo, nel mese di maggio rispetto al maggio del 2014, un dato già corretto per gli effetti del calendario, e quasi l'1% in più rispetto ad aprile. Per capire quanto è buono questo dato, diciamo che era dall'agosto del 2011 che non si registrava una crescita così forte della produzione industriale. La cosa importante, a mio avviso, è che crescono tutti i raggruppamenti, mentre nei mesi passati avevamo visto un contributo più forte per esempio del settore auto e automotive rispetto ad altri settori. Crescono tutti i comparti, particolarmente bene i beni strumentali, più 8,5% rispetto a un anno prima. Bene anche la farmaceutica, più 10%, la meccanica appunto più 9%, i mezzi di trasporto, la meccanica più 8%, scusate, elettronica più 9, mezzi di trasporto più 15, stabile la chimica più 1%, tessile e abbigliamento invece in flessione meno 1,4%. Oggi però il Centro Studi Confindustria stima un calo della produzione industriale dello 0,2% a giugno rispetto a maggio, a questo maggio, e sostanzialmente un aumento rispetto a un anno prima. Il Premier Renzi, l'abbiamo ascoltato, ha detto c'è un'inversione di tendenza grazie alle riforme. Professor Giuliano Noci, che è prorettore al Politecnico di Milano ma anche esperto di distretti industriali, piccole e medie imprese, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. La domanda che tutti si fanno, è difficile rispondere, ma insomma è la domanda che tutti si fanno, ma questo dato è un dato che si sta strutturando, cioè al di là che faccia più 3, più 2, più 0,9, sta strutturando un recupero e consolidando un recupero della nostra produzione industriale, o è troppo presto per dirlo? Ma a me sembra molto importante quello che le diceva, cioè la crescita di alcuni comparti, di comparti della meccanica strumentale e quant'altro, che evidenziano la nostra capacità di adeguare la qualità dell'offerta produttiva alla domanda, alla nuova domanda che si forma nel mondo. Più delicato e per certi versi emblematico è il calo del sistema fashion e dell'abbigliamento, che secondo me è dimostrazione, come per altri comparti, dell'incapacità del nostro sistema industriale di valorizzare al meglio asset immateriali, la capacità, la marca, il brand, il Made in Italy e quant'altro, che necessita di notevoli passi ulteriori in avanti e che oggi non abbiamo ancora risolto. Dobbiamo però essere consapevoli di un fatto e di avere un pregiudizio positivo rispetto al nostro Made in Italy. Se l'Italia fosse una marca, guardando a Google, sarebbe la terza al mondo, dopo Coca-Cola e Visa, e credo che su questo noi dobbiamo ritrovare una convinta via della crescita. Allora, mi dice in che modo, dopo le informazioni sul traffico, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. 18 e 18 minuti, ultima parte di Focus Economia. Professor Nocci, intanto rispondo ad alcuni ascoltatori. Lo sappiamo tutti che siamo ancora di un 20% sotto i livelli di produzione industriale del 2007. Ciò nonostante, e questo non vuol dire che un più 3% anno su anno non sia una buona notizia, anche perché è il dato più forte dall'agosto 2011. Lei diceva, buona la notizia, possiamo fare ancora meglio e valorizzare ancora di più il Made in Italy, che detto così sembra un discorso molto generico, ma concretamente? Ma concretamente vuol dire sostanzialmente due cose. Lato imprese e imprenditori, faccio riferimento alle piccole e medie imprese che costituiscono l'asse importante del nostro paese, debbano evitare la tentazione di cadere, come hanno fatto nel recente passato, in politiche di leadership di costo, delocalizzando in Est Europa attività produttive, e invece essere fermamente convinte di quella che è la qualità del nostro prodotto e la necessità di avere un posizionamento medio-alto di gamma. Si dirà, quindi meno rincorrere il costo, anche col costo del lavoro, con le delocalizzazioni in Est Europa e altre, ma per le piccole e medie, e puntare più sulla qualità medio-alta che si ottiene, devo dire che anche i grandi marchi lo hanno fatto, sono tornati spesso in casa, che si ottiene attraverso la qualità delle produzioni fatte in casa nostra. Assolutamente sì, del resto ce lo dicono anche le grandi multinazionali internazionali che hanno investito e hanno acquistato brand italiani grazie alla qualità delle arti e mestieri italiane. Quindi anche rispetto ai radioascoltatori, noi dobbiamo essere fermamente convinti che noi abbiamo una grande qualità della produzione, dobbiamo fare di più e gli imprenditori abbiamo detto che devono evitare di cadere in questa tentazione. Si dirà, ma come queste piccole e medie imprese come possono farlo da sole? E in effetti c'è bisogno dall'altro lato di politiche industriali a sostegno e in accompagnamento di quelle che sono le azioni che le nostre imprese devono fare nei mercati esteri, imparando ed emulando quello che stanno facendo e che hanno fatto paesi come la Francia, che per un certo numero, ad esempio, di comparti dell'agroalimentare hanno supportato le loro imprese sviluppando politiche di educazione dei nuovi mercati rispetto a quelli che erano i prodotti francesi. Penso ad esempio alla Cina. Quindi l'ingrediente di politica industriale e la convinzione, io credo che il governo debba andare inevitabilmente verso un serio riordino delle politiche di commercio estero, rivedendo quello che è il confuso sistema di promozione italiano, sia un ingrediente fondamentale per adesso andare verso la crisi. Mi beccherò del filo governativo, però devo dire che il viceministro Calenda, provenendo anche da un'esperienza importante di internazionalizzazione in Confindustria, perché aveva la delega ai tempi di Montezemolo proprio le missioni per internazionalizzare le nostre imprese, India, Cina e quant'altro, un po' di tentativo di riordino lo sta facendo. Noi spesso l'abbiamo ospite, anche il presidente dell'ICE, insomma qualcosa si sta muovendo. Lei dice però per arrivare alla visione, all'impatto sistemico che ha la Francia quando decide di aiutare un suo settore, nell'agroindustria è un caso classico, ce ne siamo occupati anche la settimana scorsa dall'Expo, dal padiglione Cibus a Italia, di aiutare un comparto, come si presenta la Francia, è ancora un modello da cui siamo distanti. Sono assolutamente d'accordo con lei e sono davvero molto apprezzabili gli sforzi del viceministro Calenda, che ce la sta mettendo tutta e certamente sta andando nella giusta direzione. Il cambiamento deve essere però un cambiamento di sistema, un po' meno freno da parte del sistema e invece volontà di emulare, ma migliorando quello che è un modello che oggettivamente si è rivelato vincente, quale quello francese. E resta il nostro obiettivo da questo punto di vista. Una battuta rapidissima, ma lei si attende che questo dato si consolidi o no? Dipenderà in parte anche dall'andamento del pasticcio greco che abbiamo vissuto in queste due settimane. Io sono, al contrario del passato, comincio a vedere dei segnali positivi e sono moderatamente ottimista. Certo, dobbiamo da un lato cambiare, ci devono essere alcuni fattori di contesto che nei prossimi mesi devono rimanere favorevoli come lo sono stati negli ultimi, in modo tale che prendiamo un abbrivio, che sia un abbrivio che aiuti e dia consistenza a un percorso di crescita che dobbiamo veramente auspicare. E a proposito di pasticciaccio greco o pasticcio greco, nel ringraziare il prorettore del Politecnico di Milano, appunto nonché esperto di distretti industriali, piccole e medie imprese, professor Giuliano Nocci, adesso spero di poter fare l'ultimo collegamento di questo tipo proprio sulla Grecia. I have a dream that one day on the l'ultimo collegamento, non nel senso che non ci occuperemo più di Europa e di Grecia, e quando mai, ma per sapere come butta il barometro Cerretelli. Fra un po' lo brevettiamo. Adriana Cerretelli, editorialista del Sole 24 Ore, in collegamento da Bruxelles. Buonasera Adriana. Buonasera a voi. Come butta il barometro? No, direi che il barometro finalmente si sta spostando verso il bello. Oh, ti sento anche con la voce rilassata. Tu interpreti anche, diciamo, vocalmente. Certo. Empaticamente la crisi, a forza di occuparti una crisi greca. Allora, visto che tantissimi anni, non ho detto troppo, ho tantissimi anni che sei a Bruxelles, che segui le vicende comunitarie, tutte queste dichiarazioni, addirittura Dijsselbloem che dice, beh, mi sembra un piano esauriente, vediamo se... se sarà anche fattibile, stanno a dire, mercato ci scommette da due giorni, che forse sabato si chiude? Allora, naturalmente a questo punto il rischio è di esagerare nell'ottimismo. Diciamo che il Tsipras ha reagito nel migliore dei modi, direi che ha in qualche modo anche spiazzato i suoi interlocutori, presentando un piano ben congegnato, delle richieste di finanziamenti che andranno analizzate, perché lui chiede 53 miliardi di aiuti nei prossimi tre anni. Diciamo, la prima impressione è buona, i commenti sono buoni, però non ci dimentichiamo che domani si deve riunire l'Eurogruppo. Allora, la Germania in questo momento, la Merkel, continua ad avere delle notevoli difficoltà in casa, nel senso che era stata scatenata, diciamo, in una maniera magari anche un pochino non trasparente, una reazione contro la Grecia e per Grexit talmente forte che adesso, con questo comportamento positivo di Tsipras, chi voleva cacciar fuori la Grecia per rendere l'unione monetaria più coerente, più omogenea, oggi si trova spiazzato, quindi deve in qualche modo giustificare la marcia indietro. Quindi potrebbero anche essere più rigidi di quanto magari non sarebbe necessario per poter giustificare in patria il voltafaccia. Ed è in queste pieghe in cui secondo me ci potrebbero essere degli incidenti di percorso, come ci potrebbero essere, ma non credo, anche nell'approvazione da parte del Parlamento greco del piano Tsipras. Ora, è molto probabile che ci sarà una defezione di parte dei deputati di Siriza, però grazie all'alleanza che Tsipras ha fatto con le altre forze politiche, penso che il piano passerà. Quindi, per concludere, io vedo più dei rischi dalla parte dei nordici, nel senso che in qualche modo anche i loro parlamenti, compreso il Bundestag, dovranno votare per poter avviare i negoziati, perché se tutto andrà bene, da lunedì, diciamo, ci potrà essere l'inizio dei negoziati. E mi sembra di capire dalle tue parole, per citare anche il tuo commento oggi su Sole 24 Ore, Grexit, il veleno dei luoghi comuni, che una difficoltà ci sia anche quasi culturale, perché questa crisi, oltre ad avere creato tensioni sui mercati finanziari, ha rallentato l'economia anche dell'area euro e è dimostrato che l'Europa è arrivata a... se è arrivata, se non c'è finita, a un passo dal baratro per un paese che vale meno del 2% del PIL, ha fatto anche riscoprire tutto un insieme di luoghi comuni che poi sono difficili da estirpare, no Adriana? Quando devi chiedere la prova... difficili da controllare poi, perché sono un po' nel subconscio collettivo, per cui sono difficili da governare anche. Questo non vuol dire che non siano governabili. Se ci sarà la volontà politica, come io spero, e l'ho detto da sempre, il problema greco sarebbe stato risolvibile in un battito aleno, no? Ma il problema è che non c'è più stata volontà politica, non solo, sembrava prevalere ormai una volontà politica favorevole all'uscita della Grecia. Quindi è un po' come quando, no, si apre il vaso di Pandora, poi cacciare di nuovo nel vaso tutti i cattivi spiriti che si sono evocati, ecco, diventa un po' difficile. Diventa difficile, ma è possibile. Però è per questo che, diciamo, io non sono ottimista al 100%, nel senso che preferisco essere, ben orientata ma con cautela, proprio perché temo ancora incidenti. Spero di sbagliarmi. E anche noi ci auguriamo che tu ti sbagli. Intanto però ti auguriamo un buon fine settimana. Grazie Adriana Cerretelli, in collegamento con noi da Bruxelles. i contenuti della proposta li trovate oggi sui giornali, ce ne occuperemo di nuovo la settimana prossima, quando verrà approvata l'IVA, l'eliminazione dello sconto dell'IVA a favore delle isole, a cominciare da quelle con maggior reddito come Mykonos, Santorini, i ristoranti che pagheranno l'IVA più alta, la tassa sui profitti societari che sale. Vedremo, cautela, ma forse questa volta ci siamo. Intanto sicuramente ci siamo con la fine del programma e la fine della settimana. Un ringraziamento come sempre a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata e un buon fine settimana, soprattutto per chi lo passerà lavorando. Focus Economia torna lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.